Richtung Liebfrau Milch im Porsche. Um paar Vorsprung durch Technik, Donner und Blitzen, britischer Architekt. Tomorrow belongs to me. Schwein und Dummkopf, ein Bär bitte. Jürgen Klinsmann ist kaputt. Buonasera e bentornati a questa puntata estiva di Mighty FM. Chi vi parla è sempre Claudia Mighty Mau dagli studi di Radio Kairos in Bologna presso il TPO. Siamo qui dopo una settimana di pausa, avevo detto una bugia, pensavo di riuscire a fare la seconda puntata dedicata al Siren Festival, ma la settimana scorsa è stata piena di eventi, di concerti, di trasferte e quindi abbiamo dovuto un attimo ripigliarci, ma stiamo adesso in pista per parlare appunto della seconda giornata di concerti di sabato 28 luglio al Siren Festival di Vasto e il primo nome in ordine di cartellone non poteva essere che quello dei PIL, Public Image Limited. E non potevamo che aprire con il loro biglietto da visita dirompente nel 78, appena subito la rottura tra i Sex Pistols, Johnny Rotten, ovvero John Lydon, più Kate Levine, che era nella prima formazione dei Clash, Ja Wobble e Gene Walker, formano i Public Image Limited e escono immediatamente con il primo album omonimo, anche conosciuto come First Issue, e infatti ci stiamo ascoltando il pezzo omonimo Public Image. Io ne posseggo l'LP, comprato insomma un po' di anni dopo, ma poi ci sono arrivata, beh, non tantissimi anni dopo. E appunto questo è il primo nome in cartellone in ordine di importanza della seconda giornata del Siren Festival. Ne abbiamo parlato molto nella scorsa trasmissione, giunto alla quinta edizione. Io già parlo e sorrido perché ricordo quegli anni. Il secondo nome è quello dei belgi fiamminghi Deus, che nel 94 sconquassarono il mondo con questo pezzone. Nell'epoca insomma grunge, post grunge, era irresistibile pacca collo, per quanto agitavamo la testa e i capelli. Suds and Soda, tratta dal loro primo album. Ma qui già ero passata ai CD, si trattava di Worst Case Scenario, Deus. Thank you. quando sento questi pezzi, non posso che visualizzare nei ricordi la pista del Velvet quando ce la suonava con pianto Thomas Balsamini. Deus, la prima band indie belga ad aver firmato per una major, che era la Island. Tom Barman, Steph Camille Carlens, Jules De Borger, Klaas Janson e Rudy Trouvé nel 1991 si incontrano ad Anversa suo loro genere è stato definito improvisational avant grunge, più influenze folk, punk, jazz, sempre di più e prog rock, è appunto il debutto nel 94 con Worst Case Scenario. Sono questi i primi due nomi della seconda giornata del Siren Festival, due nomi storici che hanno fatto la storia in epoche diverse ma che continuano ancora a suonare, a farsi sentire e ad avere tantissimi fan appassionati. Ma come abbiamo detto e scritto riguardo alla scorsa puntata, il Siren Festival ha molta attenzione anche per la scena indie rock, pop contemporanea italiana, ed infatti passiamo ai Bud Spencer Blues Explosion. Chi li segue da anni, magari questa musichetta penserebbe che non siano i Bud Spencer Blues Explosion, ma invece torniamo subito nel territorio a loro caro. Un duo, un power duo, voce chitarra più batteria, nato nel 2007 a Roma, Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio. Uniscono anche loro grunge, rock anni 70 al blues, infatti il nome stesso è un omaggio a John Spencer Blues Explosion, con un rimando assolutamente nazional popolare, ovvero l'immagine insomma del cinema d'azione, B-movies insomma italiani degli anni 70, ovvero Bud Spencer, anche lui con pianto, morto da quasi due anni, Carlo Pederzoli. Un duo di grandi capacità tecniche che appunto trovano le loro radici nel blues più classico alla Robert Johnson, nel rock anni 70 a partire da Hendrix fino a Led Zeppelin e poi al grunge dei Nirvana o rock un po' più duro dei Motor Psycho. E ci stiamo ascoltando questo pezzo molto pop, molto estivo, molto fresco. Si tratta di fronte a te, di fronte a me, tratto dall'ultima loro pubblicazione, il loro ultimo album del 2018, Vivi, Muori, Blues, Ripeti. Restiamo in territorio italiano, ma cambiamo suoni, cambiamo genere. È l'arpa che apre questo bellissimo pezzo di Colapesce, in arte Lorenzo Urciullo, classe 83, Solarino, paesino di 8.000 anime vicino Siracusa. Dopo un EP omonimo esordisce nel 2012 con Un meraviglioso declino, seguito 3 anni dopo da Ego Mostro, epoca in cui credo di averlo visto al Covo. Poi nel 2017 è arrivata la conferma con Infedele e abbiamo scelto questo pezzo che si chiama giustamente Vasco da Gama. E lui dice di questo pezzo, che è il suo pezzo preferito dell'album, questo pezzo ha un'atmosfera magica, dice che è venuta così anche a culo. Adesso qui c'è un assolo di chitarra portoghese nata con e per il fado. Colapesce dice, un pezzo che parla di mare, Vasco da Gama che è uno dei miei eroi, infatti fa riferimento quando dice San Gabriele pancia di legno, che perché la sua barca che ha trovato la rotta per le Indie nel 1500 si chiamava così, anche se questo pezzo è stato scritto a Milano quando c'aveva la febbre, stava a letto. Nessuna aspettativa c'è il tuo corpo. Dice che quando si trova in un posto che non gli piace, lontano da casa sua, quando è triste pensa ad alcuni posti in particolare come la necropoli bellissima di Pantalica vicino a casa sua, e Ognina, uno dei posti più belli di mare che abbiamo potuto conoscere la scorsa estate, vicino Siracusa, appunto. Si collega perfettamente l'inizio di questo pezzo con il rumore dello sciabordio delle onde, magari sulla pancia della nave di Vasco da Gama, e inizia invece questo pezzo dei londinesi Toy. Gaze, crowd rock, psichedelia, musica ipnotica e pulsante per questa band formata da Tom Dougal, Dominic O'Dair, Maxim Barron, Alejandra Diaz, poi sostituita da Max Oscarnold e Charlie Salvage, tra l'altro il bassista, collabora anche nel progetto parallelo di Faris Badwan degli Horrors, che si chiama Kazai, ma noi stiamo ascoltando invece il progetto principale, ovvero i Toy, che hanno pubblicato un primo singolo nel 2011, si sono formati nel 2010, fino a poi ad arrivare nel 2016 con l'ultimo album, forse adesso ne arriverà un altro. L'album si chiamava Clear Shot e stiamo appunto ascoltando il brano di apertura che si chiama A Clear Shot. Come on, girl. Don't speak too soon. Clear Shot, un pezzo che per la prima metà è una ballata e poi invece ha questa transizione elettrica. Gli ultimi tre minuti invece così trascinanti. E stiamo ascoltando i nomi, quasi tutti, perché poi in corso d'opera se ne sono aggiunti altri oltre al cartellone anche della domenica 29, giornata conclusiva, ma anche appunto del venerdì sono aggiunti altri nomi, ne parleremo alla fine. E invece adesso passiamo a Rodrigo Amarant o Rodrigo Amaranci. Cantante, autore, poeta, polistrumentista brasiliano che si è fatto prima conoscere come un membro del gruppo rock brasiliano molto famoso Los Hermanos, Rio de Janeiro 1976, è nato e sebbene abbia sia entrata a far parte della band dopo il primo disco, la sua influenza nei album successivi de Los Hermanos è sempre stata più importante, più presente, tanto che è diventato appunto la voce principale, una voce molto bella, e il suo contributo è stato anche di aggiungere più suoni brasiliani, più bossa nova, ammorbidendo insomma il suono di quella band. Sono un po' distratta mentre dico queste cose perché sottofondo c'è il pezzo più bello e commovente del suo ultimo lavoro in studio, che ormai è di 5 anni fa, Cavalo, e si tratta di The Ribbon. L'abbiamo già ascoltata in trasmissione anni fa in occasione di una puntata sul NOS Primavera Sound di Porto, dove l'abbiamo visto e l'abbiamo potuto incontrare alla tenda stampa e ho potuto dichiarare tutto il mio amore per questo pezzo e ci siamo abbracciati. C'è questo passaggio che era molto De Gregori nella musica. Ask who you must, faith that is trust, and justice be made for numbers we pray. Woman made blind with angels at guard, servants of lords with a scale and a sword. attraverso questo pezzo è veramente un grande autore, Rodrigo Amarant, che in questo album cavallo spazia tra, passa dall'inglese al portoghese do Brasil, non si può dire brasiliano se non si offendono i brasiliani, e anche appunto variando molto gli stili di conseguenza, come potremo sentire in seguito. Ma adesso torniamo in casa nostra, anzi torniamo dal Nestri Biel Friul, ovvero a Udine, con gli Amari. Sta prendendo parte all'inganno che fa cercare inutilmente le parole per complicare i pensieri con affanno, ignorando il loro vero sapore. Anche lui in fila per unirsi al coro, dove ci si inventa un po' di favole che parlino d'amore o di lavoro. Dario, basta con tutta questa patetica poesia, smettila di confondere ragione e follia. E non ci credo che tutti questi cantanti si sono scottati per ogni canzone, usano aggettivi straordinari e suadenti per arrivare a molte più persone. Mi piace prendervi in giro mentre fate i finti tonti. In fin dei conti l'amore si prova, l'amore si trova, l'amore ti droga, l'amore ti prova. L'amore, se proprio lo vuoi, può anche nascere dove sembra sia rimasta solo cenere. L'amore si prova, l'amore si trova, l'amore ti droga, l'amore ti prova. L'amore, se proprio lo vuoi, può anche nascere mentre ascolti le canzoni quelle stupide. E guarda caso, ne sta passando proprio una in radio, non riesco a non badarci, tocca dargli peso questa canzone. Canzonetta che fa pugni coi ricordi, punta dritta al naso, tra un caffè e la vita, la carta e la matita. La mia ex partita, ho aperto partita IVA, la gente che mi chiama per cognome dice Piva. La voce che ti trema quando dici, io per dimenticarti andavo in bici. Cantar d'amore da professionisti, col cuore in mano, in tasca, nel cassetto e nei dischi. Perché non sempre se lo merita, non so se insistere, o è solo dentro la mia testa che lo lascio esistere. Non serve la verità, non c'è motivo per le lacrime versate che vi prendo in giro mentre fate i finti tonti. Gli Amari, ovvero i maestri del pop sbagliato, since 1999, Dariella più Pasta, all'inizio hip hop anche in questo pezzo, poi sperimentazione tra generi diversi e poi arrivo del terzo elemento del gruppo, Cero al basso, una vittoria ad Arezzo Wave nel 2000 che produce poi il loro primo album Apoteche nel 2002. Un incontro con il produttore storico della band Leonardo Beccafichi, con cui creano poi Gamera nel 2003, rap a cui però aggiungono suoni folk ed elettronici per un'evoluzione continua del suono fino al 2005, Grandmaster Mogol, e poi appunto attirano l'attenzione della Warner che gli propone produzione e distribuzione, quindi da major, ma invece mantenendo un'indipendenza artistica. Questo pezzo che stiamo ascoltando, un testo molto interessante ed ironico, è L'amore si prova, invece uscito nel disco ultimo del 2017, Polverone. In fin dei conti, in fin dei conti, in fin dei conti. Siamo rimasti in Italia, siamo ritornati a Roma con una giovane cantautrice molto interessante, ma ascoltiamo un po', si chiama Mesa. Come i segreti che si dicono i pesci sott'acqua, non li li sente nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, a parte te. Federica Messa, 25 anni, questo pezzo che mi ricorda molto il suono di The Bands, dei Radiohead, si chiama Le Metamorfosi dell'Aria. Che qui un po' si sentivano i Radiohead, proprio di quel disco. Insomma, o quello prima o quello dopo. Questo è il disco d'esordio, si chiama Touché, infatti nelle foto indossa la divisa da schermitrice. Del disco si dice 11 canzoni che esclamano e ammettono di essere state colpite nel vivo da una stoccata avversaria. Davvero molto interessante questo disco e questa giovane autrice, 25enne, l'abbiamo detto, e presenterà quindi questo debutto al Siren Festival sabato 28 luglio. Torniamo un po' più a nord, andiamo a Bergum. Questa band, un quintetto mi pare, si chiama Vanarin, sono nati nel 2015 dall'incontro tra un cantautore inglese, David Paisden, e altri quattro ragazzotti del Bergum. Nel 2018 hanno pubblicato per la Woodworm un album Overnight e ci ascoltiamo Tulpa. una band davvero molto eclettica. In questo passaggio ci ho sentito Echi dei Who di Tommy insieme a Genesis. Sono tante le band italiane, gli autori italiani che sono stati invitati ad esibirsi al Siren Festival in quel de Luvast per il quinto anno consecutivo dal 26 al 29 luglio, possibilità di campeggio. Io vorrei tanto andarci, adesso vediamo se Anna Chiara di DNA mi dà l'ok per questa trasmissione, ovviamente in collaborazione con DNA Concerti, grande agenzia di booking e di organizzazione di eventi. Ricordiamo anche la sezione elettronica, che per esempio hanno organizzato l'evento di Astro Festival a cui siamo state lo scorso sabato, DNA Dance Department, ma questi invece sono norvegesi, quindi siamo espatriati un'altra volta. Si tratta degli Spielbergs, un power trio che sono esorditi con questo singolo che stiamo ascoltando, We Are All Going To Die, che mi sembra una verità incontrovertibile, e successivamente poi uscito, incluso in un EP, Distant Star, Spielbergs. Quindi Siren Festival si distingue anche per questa modalità dei festival internazionali, soprattutto inglesi, di cogliere le band proprio al loro esordio, così fresche le loro prime produzioni, come appunto questi Spielbergs da Oslo, Mads Backlien, Stian Brenskag e Christian Løvaug. In attività da meno di due anni, hanno pubblicato per ora ovviamente solo un EP, Distant Star, da cui stiamo ascoltando We Are All Going To Die. decisamente una potenza di fuoco notevole, questo power trio norvegese. Ma adesso torniamo in Italia, non so bene dove. Anche questo è un esordio molto molto fresco, si tratta di Marilisa Scagliola, in arte Maelis, con la dieresi sulla E, in attività proprio dall'anno scorso. Il genere è l'R&B, il soul, l'elettronica, quindi insomma la versione più contemporanea e moderna di questi generi. Lei si esibirà nel Moto Guzzi Stage, sono diversi gli ambienti, anche in spiaggia, dove si svolgeranno i concerti del Siren Festival. Questo è il primo singolo di Maelis, si chiama Be The Journey. To go back, but now I have to. New start for me as I see my dawn. Will you still waiting for me? Even if I was not in. Sono mai sola nella mia solitudine, canta Maelis per questo pezzo che, parlando di viaggio, si apre appunto con lei che guarda fuori dalla vetrata di un aeroporto sulla pista, e manca a farla apposta. La prima parte del video è stata girata a Lisbona, la parte centrale a Milano e la parte finale a Lisbona. Finisce il pezzo di Maelis. Nel momento in cui ci siamo accinte a preparare questa trasmissione, appunto, non c'era l'aggiornamento con molti altri nomi aggiunti nella giornata del 27, in questa del 28 di cui parliamo oggi, e nell'ultima giornata conclusiva del 29. Quindi insomma le band, i nomi che ascoltiamo sono questi, e adesso giro di boa, come abbiamo fatto l'altra volta, due pezzi per band, giusto per piantarceli bene in testa chi suonerà, e quindi siamo tornati ai Public Image Limited. We have a broad scale to travel, just let it trickle learn it and hold it. Even seems unkind. It takes a whole lifetime being sorry to you. It takes a whole lifetime for what happened to me. L'esordio dirompente nel 78 e tanti cambi di line up, per cui della formazione originaria c'è rimasto solo lui, John Lydon. I PIL hanno avuto una produzione molto costante, poi dal secondo album del 79 Metal Box fino ai primi anni 90. Che stiamo ascoltando si chiama Whole Lifetime. Dicevo, dopo i primi anni 90 c'è stata una pausa nella loro produzione definita droning slow tempo noise rock e dub, ovviamente overlaid by Lydon's distinctive vituperative rant, ovvero che sputa su tutti, blatera, sputa su tutti, un po' come fanno i Sleaford Mods in modo molto divertente. Ritorno nel 2010 cui è seguito, sono seguiti due album di nuovo materiale nel 2012 e nel 2015 l'album da cui stiamo ascoltando questo pezzo, quindi l'ultima release di materiale originale to date, ovvero What the World Needs Now. Tra l'altro vedo che proprio quest'anno è uscito anche un documentario dal titolo The Public Image is Rotten, ovvero l'immagine pubblica è marcia, per chi non sapesse, ma sicuramente lo sanno tutti, cosa significava il nome da Sex Pistol di John Lydon. E avendo fatto il giro, adesso siamo ritornati ai Deus, che dopo l'EP del 95, My Sister, My Clock, hanno pubblicato un secondo vero e proprio album nel 97, In a Bar Under the Sea, e questo è il pezzo che ho scelto, che mi è più caro al cuore, insieme a Suds and Soda. Si tratta di Little Arithmetics. Talking, talking, Little Arithmetics, tratto da In a Bar Under the Sea del 97, qui seguito The Ideal Crash del 99, poi una pausa per i Deus fino al 2006, tanti cambiamenti di line up, infatti della formazione iniziale c'è rimasto la voce Tom Barman e Klaas Janssons, e poi altri 4 album fino al 2012 Following Sea, e poi niente più se non la release più recente è una raccolta del 2014, Selected Songs 1994-2014, quindi momento nostalgia, per questo abbiamo scelto i primissimi successi dei Deus contenuti in questa raccolta. E ora torniamo ai Bud Spencer Blues Explosion, che invece loro hanno esordito nel 2007 con Happy e poi nel 2009 con un album omonimo. Poi nel 2011 è uscito Do It, ovvero di puntato O, puntato I, puntato T. Poi nel 2014 BSBE, come spesso vengono chiamati. Sarò chi sono, anche questo pezzo nuovo tratto dall'ultimo album Vivi Muori Blues Ripeti. Dopo un passaggio alla 42 Records, questo disco invece esce per La Tempesta Dischi. Fin dal loro inizio hanno fatto tantissima attività live, fin dal 2009, dopo l'uscita del disco omonimo, hanno fatto anche tour negli Stati Uniti. È un disco che poi conteneva una cover di A Boy A Girl dei Chemical. E non sono nuovi a fare delle cover, perché hanno fatto anche Daft Punk Is Playing at My House dei LCD Sound System con la voce di Alessio Bertallot e il basso di Saturnino. Poi hanno composto anche un brano per la colonna sonora di Romanzo Criminale. Ma questo invece è Presto sarò chi sono. Continuando a parlare di cover, nell'EP dal vivo registrato al Circolo degli Artisti nel 2011, Fuoco Lento, spiccava una cover quasi riconoscibile di Killing in the Name di Rage Against the Machine, con un inizio praticamente country bluegrass. Questi erano i Bud Spencer Blues Explosion, e torniamo nella Sicilia di Colapesce. Questo pezzo, sempre tratto da Infedele del 2017, si tratta di Compleanno, e ci raccontiamo sopra la leggenda di Colapesce. e la leggo perché è stata scritta meglio di come la potrei raccontare io. La leggenda, ampiamente diffusa in tutta l'Italia meridionale, narra che Colapesce fosse una sorta di ragazzo prodigio con un talento innato nel nuotare, tanto da sembrare appunto un pesce. Figlio di un pescatore siciliano, passava le giornate percorrendo gli abissi del Mediterraneo in cerca di tesori, finché un giorno il re di Sicilia, informato della sua fama, non decise di metterlo alla prova. Proprio durante una di queste sfide, secondo la versione più nota della leggenda, Colapesce si spinse talmente a fondo nel mare da scoprire che la Sicilia poggiava su tre pilastri e che uno di questi fosse ormai prossimo a crollare. Per salvare la sua terra dal disastro, il ragazzo decise allora di sostituirsi alla colonna, rimanendo per sempre a sorreggere la sua isola e non facendo mai più ritorno a galla. Questo album infedele prodotto insieme a Mario Conte, come già aveva collaborato in passato e ultimamente anche produttore di Cristo, e poi con la partecipazione importante di Jacopo Incani, ovvero Io sono un cane, per un autore che unisce la tradizione melodica del cantautorato italiano tipo Battisti, Paolo Conte, Fossati, invece è una sperimentazione all'elettronica, alla modernità, spesso in controtendenza e poi soprattutto grandissima padronanza tecnica, cura meticolosa degli arrangiamenti, il live anche molto bello, l'abbiamo perso al Cavaticcio causa matrimonio, che vede anche la presenza della sassofonista Adele Nigro, che abbiamo già citato parlando di Mischeta nella scorsa trasmissione. Quindi infedele, 8 tracce varie, coraggiose ed essenziali. Non abbiamo scelto i singoli di Attraverso e Totale, ma invece abbiamo scelto Vasco da Gama e questa Compleanno. è finito con la pesce, ritorniamo all'indie londinese dei Toy. Questo pezzo, questo passaggio sembra quasi alla Charlatans, decisamente. Sì, è proprio il suono della musica inglese pre-esplosione del Britpop, quel passaggio insomma dal shoegaze al Britpop, primi Charlatans, Stone Roses. Dicevamo, questo gruppo, i Toy, hanno fatto un album omonimo, poi dopo l'esordio con un singolo nel 2011, hanno fatto un album omonimo nel 2012, poi nel 2013 hanno fatto un altro album, Join the Dots, insieme al produttore Dan Carey, con cui poi, questa è una curiosità, hanno collaborato al progetto Sex Witch, ovvero il progetto insieme a Natasha Khan, The Bad for Lashes, che hanno pubblicato un disco nel 2015, e poi invece con i Toy, a nome Toy, è uscito nel 2016 Clear Shot, lo stesso disco che abbiamo suonato prima, e questo è un altro pezzo, si chiama Another Dimension. Dalla musica, ogni tanto mi dimentico di dire perché siamo qui oggi riuniti per parlare del Siren Festival. Queste sono tutte band che si esibiranno nella giornata di sabato 28. Il festival inizia ufficialmente giovedì 26, venerdì 27 abbiamo ascoltato quasi tutti i nomi, insomma quelli che sono i principali che erano stati diffusi fino alla data della nostra trasmissione. Adesso questi invece sono i nomi della giornata del 28 e poi c'è la giornata conclusiva del 29. Vasto paese, vasto spiaggia, vasto mare, vasto cibo buono, quasi al confine con il Molise, per chi non lo sapesse, è quello che insomma mi sono sentita l'altra volta di paragonare un po' a una Benicassim dei tempi d'oro, italiana. E finiscono i Toy e ritorniamo a Rodrigo Maranci con un altro pezzo che appunto denota, dimostra insomma l'altra scena, l'altro amore, ovvero la musica più classica brasiliana, sempre tratta da Cavallo del 2013. Questo pezzo si chiama Maná. Hoje o ponto é pra cura de amor. e a conferma del suo amore per la musica più tradizionale, ma anche nella versione appunto della bossa nova inventata dai grandi maestri che lo hanno preceduto, e negli anni in cui faceva ancora parte de Los Hermanos entra nella Orchestra Imperial con altri appunto grandi nomi della musica brasiliana, dei veterani appunto, per suonare pezzi di samba classici, e nel 2006 pubblicano anche un album di debutto che si chiama Carnaval Su Ano Que Vem, però Carnevale solo l'anno prossimo. E però gli orizzonti si ampliano perché nel 2007 viaggia in California, raggiunge Devendra Banhart e partecipa al suo album Smokey Rocks Down Thunder Canyon. In quel periodo diventa amico del batterista degli Strokes Fabrizio Moretti e del polistrumentista Binky Shapiro, e i tre formano un nuovo gruppo rock dal nome Little Joy, che ha pubblicato un album omonimo nel 2008, e adesso, surprise, soprattutto per me, perché nonostante io abbia guardato le tre stagioni di Narcos nel giro di una settimana proprio all'inizio di quest'anno, non mi ero chiesta di chi fosse la sigla iniziale. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar. Chi è che l'ha scritta e l'ha cantata? È Rodrigo Amarant, colonna sonora di Narcos, scritta nel 2015, Tuyo. Perché oltre a essere una serie che parla di cocaina e di ammazzamenti multipli, è anche la storia di una grande storia d'amore, comunque quella di Pablo Escobar per sua moglie. È vero che poi dopo Netflix ti fa skippare la sigla, ma invece io molte volte me la sono ascoltata perché è veramente un bellissimo pezzo. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy. Espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, que temo ahogar. No, te parla bene in spagnolo, però dove c'è una parola con la doppia R viene fuori la H portoghese. E chissà che dopo finora l'unico album a suo nome Cavallo del 2013, adesso non ne esca un altro a nome Rodrigo Amaranchi. E siamo tornati agli Amari, avevamo interrotto il racconto della loro vicenda professionale parlando dell'album distribuito poi dalla Warner nel 2007, Scimmie d'amore. Ora che abbiamo concluso e anche l'ultimo gatto di polvere è stato mangiato dal nostro pulire, ogni traccia confusa. Polverone, sempre l'album dell'anno scorso, e Gatti di polvere, una storia di un amore finito, di una casa presa insieme, svuotata insieme, e chissà quanto durerà questo stop. Stavolta non scendono solo a te, ogni casa che lascio indietro un sentiero coperto di cenere. Non ti preoccupare per tutti i ricordi che abbiamo gettato, che non siamo riusciti ad impacchettare, che non siamo riusciti a portare voci che trasportano la polvere di quello che possediamo, dalla strada al terzo piano, su e giù senza ascensori, che trasportano la polvere in un posto più sicuro da dividere con te finché dura questo stop. Già, chissà quanto dura questo stop. Chissà quanto dura questo stop. Gli Amari da Udin, prima un duo, poi un trio, poi un quartetto. A disegnare i confini di un'isola in questa casa distante dal mare. Tracceremo percorsi nel buio, che se dovesse mancare la luce non ci saranno spigoli più per nessuno. Eh sì, perché nel 2009 si unisce il chitarrista Enrico Berto e nel suo studio a Pordenone registrano Power, e poi si riunisce il nucleo originario d'Ariella Pasta e Cero, sempre con il produttore Leo Beccafichi, per creare nel 2012 Chilometri. Poi appunto arriva il quarto membro che si occupa dell'elettronica, delle tastiere e della batteria, Simone Sant, e nel 2015 iniziano a lavorare su Polverone, che esce nel 2017, il disco più elettronico della band finora, uscito anche questo per Bomba Dischi. Già, chissà quanto dura questo stop. Chissà quanto dura questo stop. Chissà quanto durerà questo stop. Ciao. Quanto dura questo stop? Quanto dura questo stop? Quanto durerà questo stop? Quanto dura questo stop? E nel roster di Bomba Dischi, non l'abbiamo detto prima, c'è anche Mesa. Abbiamo sentito prima La Metamorfosi dell'Aria. Questo invece è il pezzo che conclude il suo esordio, Touché. Leggiamo dalla sua scheda: ogni canzone sembra un incontro di scherma dove non importa tanto chi vince o contro si gareggia, quanto il non aver paura di gridare Touché. E poi si dice anche: Mesa è nata a Roma e a Roma è sempre stata, anche se sta ancora cercando di sviluppare un livello di romanità convincente. Dopo aver imparato a fare il barré, inizia la sua vita da cantautrice. In realtà, prima di questo album d'esordio, nel gennaio dell'anno scorso, ha pubblicato, autoprodotto, il suo primo EP omonimo, suonando moltissimo live in giro e per la penisola in locali, case e giardini. Questo pezzo, con questo intro strumentale molto bello e lungo, è il pezzo che chiude l'album, si chiama Oceano Letto. Thank you. qui invece le chitarre mi ricordano vagamente Daughter, ma non in modo smaccato come Dirt, che anche un po' meno. Sicuramente un pezzo giusto come chiusura di un album, ti lascia davvero una bella sensazione. E torniamo ai Vanarin, ai bergamaschi, con voce cantautore inglese David Paisden. L'album del 2018, l'abbiamo già detto, è Overnight. Questo pezzo non era il mio preferito tra i miei preferiti da passare, ma questo pezzo, Hanging from a Cloud, praticamente racchiude tipo 8 generi musicali in 4 minuti per questo progetto che vede anche la presenza di Roberta Sammarelli dei Verdena in veste di manager, Verdena Bresciani mi pare, questi bergamaschi, quindi insomma è la stessa zona. Questo appunto è Hanging from a Cloud, Vanarin. Che appunto tra tutti questi generi e suoni sono anche appunto molto bravi nel loro eclettismo, mi ricordano a volte un po' Grizzly Bear, un po' i Tame Impala, un po' la qualunque. You have to. appunto non ho più voluto parlarci sopra per sentire appunto l'eclettismo, la varietà dei generi di questo quintetto bergamasco, i Vanarin. Siamo ritornati invece al trio di Oslo, gli Spielbergs. Abbiamo detto di come appunto abbiano fatto un EP quest'anno, Distant Star, in cui hanno incluso il primo singolo che li ha fatti conoscere, e questo è un altro pezzo dallo stesso EP che si chiama Daisy is the New Me. Finisce questa Daisy is the New Me di questo trio, la cui biografia su Facebook dice: Three indie heads from Oslo's musical underground having a blast making guitar based indie rock. E siamo ritornati invece all'italianissimo Marilisa Scaiola Maelis, dopo aver ascoltato il primo singolo Be a Journey. Questo è un altro singolo e video, si tratta di Apricot Marmalade, ed entrambi comunque sono nel suo album di debutto che si chiama Melange. Crash into that wall. I take you on a life for sure, so you can see how I am now. Stiamo ascoltando, abbiamo ascoltato Apricot Marmalade di Maëlys, tra l'altro un pezzo uscito in esclusiva per Red Bull Music il 9 maggio per un artista che ha già diviso il palco con nomi emergenti della scena, alcuni più affermati di altri come LNDFK che abbiamo visto al Line Check e la nostra amica Sofia Lim. Siamo arrivati alla fine di questa trasmissione dedicata alla seconda giornata del Siren Festival. Ricordiamo, per il weekend 40 euro a giornata o 60 euro per tutte e due le giornate. E 26-29 luglio, vasto, ridente cittadina del Basso Abruzzo, facilmente raggiungibile grazie alla 14 o qualsiasi linea di treno che dal nord scenda lungo la Adriatica verso Bari. E concludiamo, visto che abbiamo detto che si sono aggiunti altri nomi, non possiamo fare altro, possiamo solo nominarli perché non li possiamo ascoltare. Ci teniamo per sottofondo il pezzo conclusivo di Polverone degli Amari che si chiama Telefonata con mia mamma, molto carino. Ai nomi di venerdì 27 si sono aggiunti il torinese Bianco, D'Orso, Dada Matto e Margherita Vicario. Il 28 si sono aggiunti B, una ragazza, Francesco De Leo, Black Snake Moon, Lorenzo BETW, Lago, Sacramento e Verano, mentre domenica 29 ci sarà il Buena Onda DJ Set, i Fitness Forever, Lucia Manca e The Zephyr Bones. E dico quello che non ho detto l'altra volta, perché avevo scelto di non passare, non esistono pezzi originali dei Too Many DJs, fanno i DJ, quindi non li abbiamo neanche nominati, ma ci sono, come il sabato 28 c'è il collettivo Ivreatronic, ovvero gli amiconi della balotta di Cosmo, che quindi anche loro faranno DJ set. Ci vediamo chissà a Vasto per Siren Festival. Ciao da Claudia Mighty Mau.